grazie di essere qui con noi e ringrazio innanzitutto i nostri ospiti qui al tavolo, la dottoressa Cristina Costa, che per anni è stata una nostra bravissima collega e soprattutto una cara amica mia, e ringrazio perché è stata l'ispiratrice di questa serata. L'architetto Fulvio Giorgi, che ritengo il mio amico, e la sua consorte Pierina, e anche lui ha contribuito. In quest'estate ci siamo trovate, abbiamo pensato come, anzi ci hanno anche suggerito soprattutto come organizzare questa iniziativa, e naturalmente Valentina Raimondo, che è l'autrice del libro che questa sera verrà presentato e che appunto ha fatto questa bellissima ricerca dal taglio biografico, che non vi illustro, ma lascerò la parola appunto ai nostri ospiti, che merita di essere conosciuta perché è compilata in maniera esemplare, con criteri scientifici e con una conoscenza diretta e personale degli ambienti, delle persone e di tutto l'entourage di questo grande artista, che ha avuto anche una parte della vita e un legame particolare col nostro territorio, motivo per cui questa sera siamo, anche uno dei vari motivi per cui questa sera siamo qui a ricordarlo e a conoscerlo forse anche in maniera più approfondita attraverso proprio il libro di Valentina Raimondo e con l'aiuto anche di Cristina Costa e di Fulvio Giorgi. La biblioteca organizza quasi settimanalmente, anzi due volte in settimana tendenzialmente, degli incontri con gli autori e con le autrici, perché siamo convinti, e l'abbiamo visto in questi anni, che creare continue occasioni di lettura e di approfondimento sia un motore imprescindibile per, così, per creare delle suggestioni e degli interessi nei vari settori culturali e soprattutto poi tornare in biblioteca e leggere, ecco, leggere i libri che mettiamo a disposizione, ma non solo. Non mi dilungo più, la prossima settimana avremo altri appuntamenti, infatti il successivo sarà martedì alle ore 18, sempre qui in biblioteca, la sala più 1, con Andrea Di Michele qui da Tonelli, e sarà dedicato al tema della memorialistica della Prima Guerra Mondiale. Visto che l'anno è quello che siamo, è un anno appunto di evocazioni importanti e il prossimo lo sarà ancora di più per il nostro territorio, ci tenevamo ad avere anche un'occasione di questo genere. Ancora grazie mille a voi e lascio la parola ai nostri ospiti. Buonasera. Questo esordio alla Papa Francesco speriamo sia di buon auspicio. Allora, volevo ringraziare la dottoressa Trevisan, che ha voluto associare me e l'architetto Fulvio Giorgi a questa presentazione, e la dottoressa Raimondo per aver cortesemente accertato la correlazione. La nostra presenza, se mi permettete l'uso di un termine cooptato da altro campo semantico, avviene un po' per traslazione. Perché? L'architetto Giorgi ed io siamo stati legati per lunghi anni da grande amicizia con Piero Siena, l'indimenticato inventore di Museion, l'animatore della vita culturale del nostro territorio per lunghi anni. Molto rimpianto tuttora, forse oggi ci manca più di allora. Piero Siena a sua volta era legato da profonda amicizia e davvero affetto a Nino Franchina, scomparso nel 1987. Ed ecco qui la traslazione di cui parlavo prima. Il nome di Franchina ritornava spessissimo nei discorsi di Piero, con il quale insieme a Fulvio abbiamo collaborato per lunghi anni nell'organizzazione di eventi espositivi che credo abbiano lasciato il segno in questa città, in questo territorio. Quando Piero parlava, ecco, prepotentemente il ricordo di Nino Franchina riemergeva con tanta frequenza, e insieme al ricordo anche l'amarezza per un amico, fratello prematuramente scomparso, e soprattutto perché Piero riteneva che Franchina non avesse maturato quel riconoscimento artistico allargato che avrebbe meritato, un riconoscimento che gli è stato assicurato da critici importanti, dai collezionisti, dai suoi stessi colleghi, dalla presenza con le sue opere in molte sezioni della Biennale di Venezia, dalla sua ricerca coraggiosa, scevra da compromessi, e forse proprio in quest'ultima caratteristica sta la ragione per la quale quel riconoscimento allargato non è mai arrivato. Piero citava sempre Nino come artista per la sua coerenza, ma anche come uomo, e più volte ci ha intrattenuto con piacevolissimi aneddoti che raccontavano il loro cammino nell'intricato mondo dell'arte, ma anche con episodi legati al loro vissuto privato. Quindi Fulvio ed io lo abbiamo respirato, Nino Franchina, anche se non l'abbiamo conosciuto personalmente, se non attraverso le opere che ci ha lasciato e che sono minimamente documentate anche oggi in questo contesto. Per esempio Piero mille volte ci ha raccontato la storia del suo porta banconote a fermaglio che Franchina gli aveva forgiato e gli aveva regalato. Questo bellissimo piccolo oggetto non era quello originariamente ricevuto in dono da Franchina, perché quello era andato perso, sfortunatamente, lasciando proprio in Piero una traccia di rimpianto. Però quando Piero ci offriva il caffè, e lo offriva sempre lui, devo dire, perché era molto generoso, tirava fuori dalla tasca questo porta banconote e ricordava il suo amico scomparso. Nino Franchina era marito di Gina Severini, una delle due figlie del grande pittore futurista. E quando con Piero stavamo organizzando la grande mostra dedicata a Gina Severini, che fu ospitata a Castelmareccio ormai qualche decennio fa, ebbe il piacere di incontrare e di conoscere la signora Gina a Roma, nel suo alloggio, una sistemazione davvero bohemienne in via Margutta, in questa zona della città destinata dal comune ad alloggi e studi per artista. Mi ricordo perfettamente la lunga, larga scalinata popolata di gatti che portava all'appartamento di Gina, e poi il piacevole chiacchiericcio di questa signora ormai anziana, che una frase sì e una frase no ricordava il marito scomparso non da molti anni. Cosa aveva fatto Gina quel giorno per farmi piacere? Aveva fatto arrivare dalla camera di sicurezza della banca dove si trovava il ritmo plastico del 14 luglio, il famosissimo quadro del padre Gino, il quadro che forse rappresenta l'apice della produzione futurista di Severini. L'aveva portato lì perché potesse ammirarlo da vicino. E la cosa fu naturalmente un'emozione molto forte, soprattutto in quel contesto così pieno di vissuto, così intriso d'arte. Il quadro che forse avrete potuto anche recentemente ammirare al MART, perché è ora lì depositato per ragioni di sicurezza e per ragioni conservative. Anche perché Gina, che ne era la proprietaria, in quanto l'aveva ricevuto in dono dal padre per il suo matrimonio con Nino, per disposizione testamentaria agli eredi, lei è morta nel 2004, aveva espresso la volontà che il quadro non venisse mai venduto e che rimanesse per sempre in ambito familiare. Quindi una grande emozione in quel momento davanti a quell'opera futurista, ma l'emozione ancora più grande fu quando Gina mi volle accompagnare nello studio del marito Nino, che era sottostante all'appartamento in cui abitava. Lo studio era stato lasciato completamente intoccato. C'era la penombra, su una sedia era ancora appoggiata la giacca di lavoro di Nino, sul tavolo erano disseminati gli strumenti, c'erano schizzi un po' ovunque, le imposte erano appena accostate, neppure le imposte erano state mosse. Gina aveva voluto che tutto rimanesse così come l'aveva lasciato Nino nell'ultimo suo momento di vita. Un'atmosfera straordinaria, tedesco, la chiameremo una Stimmung straordinaria. La presenza dell'artista era ancora percepibile, era in realtà una presenza assenza, no? Però percepibile. E mi viene in mente ora il bellissimo reportage che Gianni Berengo Gardin negli anni 90 aveva dedicato allo studio di Giorgio Morandi. Non so se avete avuto occasione di vedere questo reportage, e che si concludeva con un'immagine in bianco e nero con un'ombra appena approfilata di lato. Era un'ombra che artificiosamente il fotografo aveva voluto inserire per evocare la presenza perenne dell'artista. Ecco, ho pensato oggi, ricordando la visita allo studio di Franchina, che forse questa necessità Berengo Gardin non l'avrebbe avuta se avesse avuto la possibilità di fare un reportage anche dello studio dello scultore. Non ci sarebbe stato bisogno di evocazioni, non ci sarebbe stato bisogno di ombre, perché la presenza di Nino era già lì, nelle sue cose, nella sua giacca, nei suoi strumenti, nei suoi schizzi, no? Una presenza forse in quei raggi di sole che entravano accennati dalla finestra, in quella penombra veramente evocativa. Che cosa raccontarvi ancora? Che grazie alla mostra di Severini, costruita in forza della collaborazione che ci assicurarono Gina, che ci assicurarono Romana, le due figlie dell'artista, infatti fecero da consulenti scientifiche al progetto, fecero da intermediatrici dei prestiti importanti che ottenemmo presso collezionisti privati, presso musei, anzi, si misero a disposizione addirittura opere importantissime appartenenti alla collezione familiare. Ecco, attraverso loro ho avuto la possibilità di conoscere tutto l'entourage di Nina, quindi di Nino, quindi oltre alla moglie Gina, la cognata Romana, anche la moglie Jennifer, la moglie americana, scomparsa anche lei purtroppo, insieme al figlio Sandro di Nino, i loro figli, quella figlia Alessandra, che firma una bellissima postfazione nel libro di Valentina Raimondo, con parole veramente toccanti e anche molto pregnanti in ricordo del nonno. E a casa di Gina, mi ricordo, avevo visto anche il bestiario che Nino Franchina aveva realizzato per la nipote Alessandra, una serie di bellissimi animaletti forgiati in ferro, il cinghiale, il maiale, il gatto, una serie di giocattoli d'artista, un nonno affettuoso per una nipote molto amata, molto belli, molto teneri. Quindi attraverso Piero, attraverso le voci, i racconti dei familiari dell'artista, ho sempre avuto però la sensazione che Franchina in qualche modo appartenesse anche a questo nostro territorio, avesse lasciato anche una traccia qui, non soltanto in forza dell'amicizia, del rapporto d'affetto con Piero, ma anche perché qui Franchina aveva lavorato, aveva creato, qui aveva stretto relazioni, qui aveva stretto amicizie, Luca Pedrotti, Piero Siena e tantissimi altri. E poi così ho pensato anche che forse quel vento che si percepisce nelle sue sculture, quei picchi che si vedono slettanti verso il cielo, chi lo sa, magari anche qui aveva trovato una fonte di ispirazione. Ed è strano pensare che anche il suocero Gino Severini era stato ospite di questo territorio, anche lui aveva lasciato qui una traccia, anche lui soggiornava sull'altipiano del Renon, anche lui aveva creato qualcosa qui, perché in plein air aveva ritratto il panorama montuoso che si vedeva dal posto in cui abitava, e aveva realizzato quei bellissimi oli così lontani dalla sua cifra stilistica solita, che sono stati acquisiti dalla provincia di Bolzano, che sono adesso in deposito presso il museo. Ecco, per concludere, per non annoiarvi oltre, soltanto un quesito che mi sono sempre posta, e cioè che cosa sia significato per Nino Franchina essere il genero di un artista universalmente noto, è citato in tutti i testi di storia dell'arte del Novecento. Certamente non scattarono meccanismi né di emulazione né di competizione per la distanza anagrafica, stilistica, di formazione, eccetera, ma di sicuro da Severini Franchina trasse un insegnamento, come afferma la nipote Alessandra nella sua postfazione. Infatti Alessandra sostiene che da Gino Severini il padre Nino recepì l'esistenza della possibilità di non arrendersi per non dover negare le proprie idee. Ecco la grande coerenza di questo artista, un po' come era accaduto a Gino Severini stesso, l'autore del ritmo plastico del 14 luglio di cui abbiamo parlato, che ai suoi tempi fu protagonista di una vita davvero avventurosa e controcorrente. Noi vogliamo ringraziare Valentina Raimondo per questo libro bellissimo che ha scritto, per la sua ricerca accurata, per la prosa brillante, per il rigore scientifico e soprattutto per aver fatto emergere la traccia che Nino Franchina ha lasciato qui, nel nostro territorio. Grazie per la pazienza. Scusate, non so se sto cliccando sul file giusto. No. No. Giuro che l'avevo salvato. In alto, presentazione 3, sopra destra, a nostra. Sì, no, non è questo. Recupero. 19. No, recupero il. La chiavetta. Non so, Fabio, c'è un problema. Qui e tutte le nostre prossime. Grazie. Presentazione di Nino Franchina. Presentazione frutto, presentazione di Nino. Eccolo. Sì, quindi. Perdonatemi. Dunque, io sono molto emozionata, quindi comincio con dei ringraziamenti. Ringrazio Luca Pedrotti, che è stato il mio primo contatto con Bolzano, l'ho chiamato qualche tempo fa perché avevo bisogno di chiedergli dei permessi per pubblicare alcune fotografie e da lì è un po' partito tutto. Ringrazio enormemente la dottoressa Costa, l'architetto Giorgi, la dottoressa Brizzano e la biblioteca, perché devo dire, per me è un'occasione meravigliosa quella di poter parlare di Nino, chiaramente, e del mio lavoro. Come dicevo prima, la dottoressa Costa, vi faccio vedere un po' di immagini, ma più che altro vorrei parlarvi di come sono arrivata a questo libro e poi vorrei anche un po' parlarvi di Nino in relazione al territorio di Bolzano, perché questo è un tema per me molto importante. Il lavoro che ha preceduto la realizzazione di questo libro è un lavoro molto lungo. Io ho iniziato nel 2005 più o meno, in quegli anni ero a Milano, stavo frequentando una scuola di specializzazione, stavo collaborando con dei professori dell'Università Statale di Milano che sempre che ero una qualche lontana parentela con Franchina, mia nonna era sua cugina, io non l'avevo mai conosciuto. E mi spinsero a contattare gli eredi. Io presi contatto con gli eredi, Gina era purtroppo morta da poco, Nino, io ripeto, non l'avevo mai conosciuto, e la nipote Alessandra mi disse: sì, vieni, ti facciamo vedere lo studio. Quindi arrivai a Roma e mi fecero vedere lo stesso studio di cui parlava prima la dottoressa Costa, che era in una condizione purtroppo un po' diversa. Le cose non erano più esattamente come aveva lasciato Nino, era una condizione un po' più di abbandono, purtroppo, naturalmente erano poi passati anche altri anni, però aleggiava comunque il suo spirito, quello è stato assolutamente faccio ripartire. Oh, scusate, così mi faccio vedere un po'. Arrivata lì dentro mi sono trovata in una situazione di fatto di grande caos, purtroppo, perché c'erano sculture dappertutto, tutti i suoi attrezzi erano ancora appesi, quindi di fatto la fiammostiltica, la maschera, era tutto rimasto quello sì come era, e poi c'erano delle enormi cassettiere, delle grandi librerie, e in effetti ho avuto questa grandissima fortuna di poter accedere all'archivio quasi senza controllo, ecco, nel senso che loro si sono fidati di me e mi hanno detto sì, vai, fai ciò che vuoi più o meno. E negli anni ho continuato a scartabellare, aprire tutti i cassetti, cercare tra le lettere, quindi nella corrispondenza, negli scritti. Ho trovato moltissimi documenti e tracce che neanche gli eredi conoscevano. Gli scritti, per esempio, di Franchina a Collalbo, all'inizio degli anni 40, la stessa Romana, qualche tempo fa, mi ha confessato, Romana Severini, mi ha confessato che assolutamente non aveva idea che esistessero. Quindi ho avuto la possibilità, forse ancora più dei nipoti, di conoscerlo, se non personalmente, di conoscerne lo spirito in qualche modo, sia attraverso le opere, che chiaramente erano le sculture che erano presenti nello studio, l'enorme quantità di disegni, considerate che lo studio conservava circa 4.000 fogli, 4.000 disegni, e poi una notevole quantità, ripeto, di documenti, carteggi e quant'altro. Quindi il mio lavoro è nato così, cercando di capire chi era Franchina, non solo come artista naturalmente, ma anche come uomo. E l'idea di farne, di realizzare una biografia intellettuale nasceva proprio da questa grande fortuna che ho avuto. Qualche tempo dopo il dottorato, perché io ho proseguito i miei studi su Franchina per oltre 7 anni, qualche tempo dopo il dottorato, quindi avendo già consegnato il mio manoscritto, un mio amico che è il curatore della collana della Fondazione Passare, all'interno del quale il mio libro è pubblicato, che in realtà mi conosceva, sapeva del mio lavoro, mi contattò dicendomi perché non pubblichiamo finalmente questi 7 anni con Franchina. Mi prendevano in giro in università, mi chiamavano 7 anni con Franchina. Era proprio un rapporto assolutamente, io quando andavo in studio entravo, lo salutavo perché c'era una sua fotografia, poi quando uscivo lo risalutavo, cioè parlavo con lui, ormai veramente in uno stato di follia totale. E quindi in questa maniera ho avuto l'opportunità, come dire, di pubblicare effettivamente tutto il lavoro. Conoscere Franchina è stato quindi per me fondamentale, sia perché mi ha instradato in qualche maniera in quello che poi sono state la nascita delle mie competenze nel campo della scultura, di fatto sono diventato storico dell'arte grazie a lui, e il fatto di riuscire a seguire il suo percorso è stata veramente una grande fortuna. Dai suoi esordi negli anni 30, quello vedete con Renato Muttuso, che è stata una figura per lui fondamentale per moltissimi anni, perché loro si formano insieme, si formano all'Accademia Libere Arti di Palermo, cominciano, creano questo gruppo, il gruppo dei quattro erano loro due, Giovanni Barbera e Lia Pasqualino Noto, quattro artisti, quattro scapigliati siciliani che fondamentalmente cercavano una via diversa rispetto ai canoni ottocenteschi dell'arte ufficiale siciliana. Considerate che quegli anni erano anni anche un po' particolari, il futurismo era da poco arrivato in Sicilia, il resto d'Italia era già da un po' presente, invece in Sicilia è arrivato molto tardi, quindi tutta una serie di influenze sono arrivate dopo, e loro inneggiavano Parigi, gli impressionisti, gli espressionisti, per loro era fondamentale poter uscire anche dalla loro realtà. Nel 1934, però vi faccio vedere, espongono tutti insieme per la prima volta nella Galleria del Milione, una galleria importantissima, la galleria che ha portato in Italia l'astrattismo. La prima mostra di Kandinsky in Italia è stata fatta proprio in quegli anni lì, alla Galleria del Milione. Vengono presentati da Edoardo Persico, che è un intellettuale straordinario, teorico dell'architettura e dell'arte cristiana in quegli anni. E loro cominciano a respirare un'aria che è diversa, è l'aria di Milano. tanto che sia Nino che Renato si trasferiscono a Milano a un certo punto. Sarà un'esperienza molto breve per entrambi e poi di lì a qualche tempo approderanno entrambi a Roma. Nel periodo milanese però di Nino, e ora vi faccio vedere, tra gli album che ho trovato all'interno appunto dell'archivio c'è questo album che si intitola Bolzano 1936. Ora nel 1936 lui era a Milano, nessuno degli eredi sapeva di questo contatto con il territorio di Bolzano, ma evidentemente lui era il suo primo approdo a Bolzano avviene nel 1936 e questo è uno dei disegni che ho trovato all'interno appunto dell'album. Non c'è purtroppo traccia, quindi non so come sia arrivato lui qui. Poi tornerà nel territorio, appunto, arriverà con l'albo all'inizio degli anni 40, spedito in realtà dai medici, perché nel 40 viene ricoverato a causa di una pleurite e a un certo punto i medici dicono devi andare in montagna, devi respirare l'aria di montagna. E quindi lui all'inizio del 41 si trasferisce a Collalbo e in questo periodo scrive dei quaderni bellissimi, almeno per me bellissimi, sono pubblicati alla fine del volume, in cui per la prima volta Nino cerca di diventare teorico della scultura e dell'arte, probabilmente spinto dallo stesso suocero Severini, ma a questo punto li ripropongo insieme. Questo è un bellissimo dipinto che viene realizzato appunto da Severini lo stesso anno in cui Nino e Gina si conoscono, si sposeranno poi nel 39. E Gino Severini chiaramente era un finissimo intellettuale oltre che un grande artista e a un certo punto probabilmente spinge il genero a meditare sul concetto stesso di scultura in un momento che era un momento un po' particolare, perché da una parte c'era chiaramente la scultura ancora ufficiale, la scultura anche di Martini, monumentale in qualche modo, ma dall'altra cominciavano a esserci degli spunti molto diversi, Lucio Fontana con le sculture astratte, con forme molto esili, lo stesso Nino cercava qualcosa di diverso, Manzù, e Nino spinto comincia a ragionare appunto sul concetto di scultura e riflette sull'importanza di alcuni artisti, Maiol ed Espiò in modo particolare. Non apprezza troppo Rodin, lo considera in realtà ancora troppo legato al classico, mentre Maiol riesce a superare in qualche maniera l'idea della, riesce ad arrivare ad un concetto di scultura moderna. La stessa cosa la dice di Marino Marini. Quindi qui nel territorio comincia il suo percorso, un percorso da intellettuale anche, che è meno conosciuto purtroppo. Vado avanti così, faccio vedere. Ecco, questo è il periodo di cui vi stavo parlando. Quel legame con la montagna, comunque col territorio, è un legame che è un po' particolare per un siciliano, soprattutto della zona di Palermo, perché Palermo sì ha qualche rilievo, ma parliamo veramente di poca roba considerata. Ma lui è sempre stato molto attratto dalla montagna. Ne parla addirittura in uno scritto, ora vi leggo brevemente, parla di alpinismo. È uno scritto del 33, quindi ancora non è neanche arrivato a Milano. Questo articolo lui lo pubblica su questo quotidiano che si chiamava Il Tevere, quotidiano di Teresio Interlandi. La pagina culturale era gestita da Giuseppe Pensabene, che è una figura poi con Interlandi purtroppo poi connessi alle vicende del razzismo, del fascismo, ma in una fase iniziale erano i veri promotori in Sicilia di un'arte rivoluzionaria in qualche modo. Questa figura, Giuseppe Pensabene, è stata una figura molto importante in quegli anni. Era un architetto ed era uno dei teorici del razionalismo in Sicilia. Grazie a lui Nino riesce a pubblicare questo articolo, è una delle pochissime testimonianze di quegli anni di Nino, in cui parla di sé, quindi racconta quelli che sono i suoi interessi letterari, e a un certo punto c'è questo passo che ho sempre trovato molto interessante, perché è l'unica occasione in cui lui parla di sport. E lui dice: ho sempre preferito, mi sono sempre piaciuti tutti gli sport, ho sempre preferito però quelli agonistici che mi fanno vedere l'uomo quasi primitivo, in lotta contro un pretesto che lo richiami di sinti più puri. Di contro, lo sport che ho sempre praticato con amore e praticherò sempre è l'alpinismo. Di esso dico soltanto che mi ha dato finora delle soddisfazioni tanto pure da metterle accanto a quelle che provo per il mio diuturno lavoro. Le prime volte che ho letto questo articolo, le prime volte lo leggevo, non capivo anche perché dove doveva farlo l'alpinismo in Sicilia, era una cosa per me inconcepibile. In realtà poi negli anni sono riuscita un po' a ricostruire. Lui in quel periodo frequentava moltissimo Fosco Maraini, che era un alpinista, e che frequentando Topazio Arriata, che era sua moglie, la spinse lei e spinse il gruppo dei suoi amici, Renato Tuso, Rimasco Ironoto, Nino Franchina, verso la montagna. Quindi questo legame poi è rimasto, chiaramente all'inizio era un legame più fittizio che altro, poi una volta arrivato effettivamente nel territorio di Bolzano è diventato sempre più forte. E questa cosa mi è sempre sembrata molto, molto particolare. Oltretutto, proprio appunto a quell'albo, Nino ha il primo contatto, il primo approccio con quella che poi sarà la materia per eccellenza, cioè il metallo. Qui realizza il suo primo bronzo, che è questa scultura, ragazzo del 42, che è una vicenda un po' particolare. Arrivato a quell'albo, considerate chiaramente. Nino era un giovane artista sempre in bolletta, è vero che il socio Severini un po' lo aiutava, ma era una cosa abbastanza relativa. Lo aiutava molto suo fratello Basilio, che era autoregista, ma ovviamente era in difficoltà economiche, quindi quando era qui lui lavorava in legno, lavorava un po' la cera, ma la sua voglia di sperimentare, che è sempre stata molto forte, soprattutto nel campo della materia, lo porta a un certo punto a cercare di capire come iniziare le fusioni in bronzo, e si fa aiutare da un artista, da uno scultore molto diverso stilisticamente da lui, che è Marino Mazzardati, che all'epoca però risiedeva ancora a Roma. E c'è questa bellissima corrispondenza tra i due, e a un certo punto Mazzardati gli spiega esattamente come fare le fusioni in bronzo. E c'è questa lettera che è ancora conservata in archivio con tutti i disegni della fusione a cera persa, che io trovo bellissima, molto preziosa, sia perché dal punto di vista della tecnica è estremamente interessante, ma anche dal punto di vista umano. Considerate che Franchina, che comunque viveva, aveva vissuto fino a quel momento a Roma, a un certo punto è costretto in qualche maniera ad una forma di isolamento rispetto a quelli che erano gli ambienti culturali che voleva frequentare, e in un momento di difficoltà si prende del tempo per sé, diventa teorico, scrive sulla scultura, ma ha la necessità di mantenere forte il contatto con Roma, lo mantiene grazie a Severini naturalmente, lo mantiene grazie a Mazzacurati, e mantiene viva la sua necessità di ricerca attraverso queste nuove sperimentazioni. Da questo momento in poi il metallo resterà sempre la sua materia prediletta. Ci saranno poi delle fasi in cui lo associerà ad altri elementi, soprattutto allo stucco, per esempio, negli anni 60, ma di fatto il metallo resta, come dire, il principe delle sue, dei suoi materiali. Procedo rapidamente, però vi faccio ecco vedere alcune immagini. Questa è la figura della San Marcota. Mi soffermo solo un attimo perché questo tema, il tema della donna che porta il sasso sulla testa, è un tema per lui fondamentale. Tra gli anni 30 e gli anni 40 lui realizzerà moltissime sculture e soprattutto disegni che hanno questo stesso soggetto. In archivio qualche tempo fa ho trovato la fotografia che vedete alla vostra destra, e quella è una donna di questo paese della provincia di Messina che si chiama San Marco d'Aluzio, che è un paese conosciuto soprattutto per l'enorme quantità di chiese. La maggior parte degli edifici erano costruiti con delle pietre di questo torrente furiano, che venivano trasportati dalle donne, appunto i sassi venivano trasportati dalle donne sulla testa. E questo tema resta in qualche modo forte nella sua produzione, ed è il tema attraverso il quale avverrà il passaggio per Franchina dall'arte figurativa, che vedete chiaramente in questa scultura a sinistra, fino all'arte astratta. Questa è ancora una fase intermedia. Siamo alla fine degli anni 40, nel dopoguerra. In questo momento lui si trova, comincia a vivere a Parigi, cominciano i contatti con l'arte, i contatti veri con l'arte francese, e la sua forma diventa sempre più sintetica. Era partito da artista figurativo, lo avete visto prima, i profili diventano appunto sempre più essenziali. Cerca di scomporre le figure, di renderle quasi geometriche. Il passaggio successivo sarà poi quello che riuscirà a fare a Bolzano, che diventa il momento, come dire, essenziale, il momento cardine per lui da tanti punti di vista, sia perché avviene il passaggio definitivo all'arte astratta, e lui a un certo punto lui dice mi sembra di aver fatto, di aver varcato una soglia e non potrò mai più tornare indietro. In effetti non realizzerà mai più opere figurative, resterà sempre su una forma astratta. Contemporaneamente, questo contatto con Piero Siena, che in realtà, se capisco bene, avviene già con l'album, però poi diventa, dagli anni 50, diventa sempre più intenso, sempre più forte, è un contatto essenziale, perché il fatto, la possibilità di lavorare all'interno del garage diventa strumento per lo scultore di un approccio nuovo nei confronti dell'arte. Vi leggo giusto qualche passo. Allora, questa è una cosa che scrive lui stesso. Le mie sculture dal 1950 sono realizzate in gran parte in lamiera battuta e verniciata a nitro. Le realizzo nel reparto carrozzeria di un grande garage di Bolzano, località che negli dintorni da anni trascorre le mie vacanze. I colori più spesso impiegati sono il grigio metallizzato, il nero e nelle note di rosso corsa, oltre l'innesto a volte di parti cromate. Gli operai che lavorano con me alla realizzazione sono ormai i miei collaboratori. Se sono costretto a volte, dietro loro consiglio, a variare qualche tema plastico per ragioni pratiche di costruzione, ho dovuto sempre convenire che la soluzione era alla fine, anche dal mio punto di vista, la migliore. Questo passo, secondo me, è molto significativo per una serie di ragioni che danno idea anche dell'approccio di Nino nei confronti di quello che è il fare arte. Il suo contatto con il mondo operaio, chiamiamolo così, è un contatto per lui essenziale. Considerate l'epoca in cui siamo, siamo nel secondo dopoguerra, inizio anni 50, è un momento in cui, da un punto di vista intellettuale e artistico, si sta svolgendo in Italia una vera e propria querelle. Da una parte ci sono gli artisti figurativi, il Renato Contuso per l'appunto, appoggiati comunque dal Partito Comunista, dall'intellettuale del Partito Comunista, dall'altra ci sono gli artisti astratti, alcuni dei quali sono anche loro legati in qualche maniera al PC, ma che vengono ad essere adesso allontanati. Nino Franchina in questa fase si allontanerà dal Contuso, litigheranno proprio per questi motivi, ma il suo approccio all'interno delle industrie, il suo contatto con la lavorazione vera è un modo, in qualche modo, intellettuale anche di fare politica per lui, ed è un passaggio che reputo realmente fondamentale all'interno della sua produzione. Da questo momento in poi il suo contatto con il mondo dell'industria è un contatto continuo. Tutte le opere che realizza, le grandi sculture, appunto, alla rossa la realizza qui, metallurgica la realizza sempre qui a Bolzano, qui c'è String. Allora, commessa 60-124 è la scultura che realizza alla Cornigliano per Genova. La scultura verrà smantellata purtroppo quando lui era ancora in vita, ma era sul lungomare di Genova ed è realizzata per l'appunto, come vedete, queste sono le diverse fasi di passaggio della lavorazione. La stessa cosa accade per Spoleto 62, che è una scultura che viene realizzata in occasione della mostra Scultura della Città, una mostra organizzata da Giovanni Carandente, un'operazione straordinaria che viene finanziata dai Dan Siller, in un momento in cui l'industria finanzia l'arte, ed è un'operazione straordinaria perché Carandente riesce a mettere insieme i più grandi scultori di quel momento, Calder, Franchina, Corpora, sono tutti insieme per la Chapik, Pomodoro, ognuno di loro realizza delle opere all'interno delle diverse sedi degli Italsider e poi le opere vengono esposte nella città di Spoleto, in un connubio perfetto tra architettura medievale o comunque antica e il moderno, la scultura moderna, un dialogo che purtroppo è in qualche maniera sparito, che dovrebbe essere recuperato a mio giudizio. La stessa cosa per la scultura, per l'opera che realizza di fronte alla biblioteca dedicata a Luigi Einaudi a Giuliani nel 63. Questa fotografia, così come quelle che avete visto prima, sono realizzate da Ugo Ullas. Il suo rapporto con i fotografi è un rapporto particolare, partendo da Enrico Pedrotti, passando da Ugo e Maria Mullas, Marco Graviano, che peraltro è suo nipote. Nino ama farsi fotografare, ama far fotografare le proprie sculture. Mi ricollego un attimo a quello di cui si diceva prima a proposito del servizio, dello studio di Morandi. Nino fa fotografare a Ugo Mullas il proprio studio. Purtroppo non ho qui le immagini, sono delle fotografie molto particolari perché Mullas non si concentra tanto sull'interno dello studio quanto sul giardino che era appunto antistante. In questo giardino Nino aveva collocato tutte le sculture di quella fase di passaggio di cui vi parlavo prima, quella della San Marcota. Le sculture erano molto grandi, tutte in gesso, e lui le aveva accatastate in qualche maniera lì davanti. Naturalmente il gesso, di fronte alle intemperie, la maggior parte delle sculture erano semidistrutte, tanto che la grande San Marcota, questa è ancora la versione che vedete è ancora in gesso, ma successivamente fu fatta fondere in bronzo da Gina perché temeva che anche questa sarebbe stata distrutta, perché Nino aveva una sorta di rifiuto a un certo punto probabilmente per quella che era stata la sua fase figurativa o la fase di passaggio. E Mullas si concentra su queste opere che sono ormai abbandonate, quasi del tutto distrutte, in una visione estremamente decadente, inevitabilmente anche della figura di Nino, quindi era una visione molto, molto particolare. Non si concentra sul nuovo, ma si concentra su come Nino in qualche maniera gestisce il suo rapporto con il passato. Vi faccio vedere giusto qualche altro caso, questo è per quanto riguarda l'innesto con altri materiali, questa è la serie degli stucchi degli anni 60. Sono delle opere un po' particolari perché questo è l'unico momento in cui c'è un ritorno in qualche modo al figurativo, nel senso che Nino recupera la figura umana, il concetto della figura umana e dello scheletro della figura umana, che cerca di rappresentare e riproporre attraverso alcune di queste opere, o della presenza umana o della figura arborea, come nel caso di Imera, che è la scultura che vedete lì al centro. Sono sculture totemiche, chiaramente lui cerca di realizzare di fatto dei totem, ma in questo caso c'è ancora un contatto con la realtà, contatto che invece in tutte le altre opere successive manca del tutto. Questa è un'opera che viene realizzata per la Castolin, per l'industria Castolin, che gli viene commissionata, Il castro era questo materiale che lui ha fatto, questa lega che lui adopera molto, ed ecco appunto nei diversi procedimenti che sono poi le sue opere finali. Per Gibellina abbandona il metallo per la prima volta ad opera il cemento armato, ma è un caso in realtà, e arriviamo quindi poi alle sculture finali, che sono queste. Ora, la fotografia sulla destra è una fotografia che ho scattato io, purtroppo rende solo una parte dello studio. Questo era proprio l'ingresso, non si vede neanche la sua fotografia, ma come vedete ci sono tutti gli attrezzi, che sono alcuni appunto sistemati un po' a caso, altri appesi. Non so se è un'immagine che la dottoressa Costa ha. No, sì, perché è diverso, perché probabilmente appunto nei vari passaggi forse è diventato un po' un deposito poi. Sì, a un certo punto è diventato purtroppo è diventato una sorta di deposito. La vicenda è stata anche abbastanza triste in quel caso, perché non era un edificio di proprietà, quindi subì lo sfratto a un certo punto anche la casa di Gina. Quindi a un certo punto tutti i materiali della casa di Gina sono passati all'interno dello studio. Attualmente gli eredi sono riusciti a trovare una soluzione che io reputo ideale, perché si sono trasferiti a Cortona, Palazzo Casali. Il comune di Cortona ha dato a disposizione loro uno spazio per poter conservare le sculture e naturalmente anche i materiali d'archivio, che sono, ribadisco, preziosissimi. Queste sono le ultime opere che realizza. Sono di fatto delle forme di libri d'artista, quindi lui anche negli anni 80, lui muore appunto nell'87, continua, procede la sua ricerca, e sono dei grandi fogli di bronzo nei quali lui inserisce alcune delle sue forme, dei suoi disegni. Questa è una delle ultime opere, poi del ferro, che un po' si richiama appunto ai libri del ferro, e concludo diciamo con questa immagine della mostra che viene fatta alla Fondazione Prada del 94, perché ci sono appunto questa è una delle opere che realizza qua a Bolzano per l'appunto. Vi leggo un altro passo, perché a questo punto credo sia, mi piace molto. Allora, il passo è un passo scritto da Giuseppe Marchiori, che è il primo teorico che in qualche modo cerca di fissare su carta l'approccio di Franchina all'arte. Saranno due i critici che, quando Franchina era in vita, scriveranno dei testi su di lui: Marchiori appunto nel 54 e Giovanni Grandette invece nel 68. Sono gli unici due testi attraverso i quali si riesce a costruire appunto in qualche maniera un percorso critico dell'artista, e sono i testi da cui di fatto io sono partita. Partendo da quelli poi ho aggiunto naturalmente tutte le altre documentazioni, ma l'immagine che offrono sia Marchiori che Carandente sono delle immagini di un artista, come diceva prima Antonessa Costa, che non accetta compromessi, di un artista puro, che ha una propria idea e che ha seguito quest'idea fino alla fine, senza non si è mai legato ad un gallerista in particolare, ha cercato come dire veramente di seguire il proprio percorso di ricerca senza badare troppo a quelle che erano le esigenze del pubblico. Concludo con questa frase appunto di Marchiori, che trovo bella in relazione appunto a quello che vi stavo dicendo. Franchina è un operaio che sa il suo mestiere, come lo conosce dal maestro dell'antica bottega. Operaio, questo vuole essere l'artista e non più il genio folgorato dall'ispirazione. La mitologia romantica è caduta dell'uomo sulle cime tempestose, di Rodin nella pelle di Michelangelo redivivo. Lo scultore con la bombola d'ossigeno e le trance e i martelli per battere la lamiera e ridurla alla forma perfetta. Lo scultore che lavora in una carrozzeria d'automobili è un tipo imprevisto di fabbricatore di oggetti che non può trincerarsi dietro la magia delle formule e i segreti di studio. È il tipo dell'artista moderno con la sua umiltà capace di unire una lamiera grigia e una griglia cromata. Ecco tutto, questo era mio. Sì, effettivamente mi ero dimenticata, questa occasione mi emoziona in particolar modo, sia perché appunto è qui a Bolzano ed è, sono veramente felice di essere qui, ma anche perché è un'anticipazione rispetto alla presentazione che sarà fatta a Milano Museo del Novecento il 18 novembre, quindi è una... particolarmente felice di queste eventi. E poi sì, ci sarà quella, purtroppo ancora non so la data, sarà anche alla Galleria Nazionale a Roma, sì, e alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo. Fulvio Giorgi. Vorrei innanzitutto fare una precisazione. mi ha fatto molto piacere stasera vedere tra gli ospiti Pino Spadon. Pino Spadone ha tanti anni che non lo vedevo, Pino è uno dei due garage del Piero, perché spesso si legge il garage del Piero Siena. Piero ha fatto costruire alcune delle sculture di Nino al garage Turin, poi Piero che ha sempre avuto rapporti difficili con tutti, posso dirlo, è un po' particolare, un carattere un po' particolare, e poi è passato al garage Bolzano e Pino Spadon ha fatto diverse di queste, forse quasi tutte queste è del garage Turin, queste qui e quelle le ha fatte. Ci tenevo a precisare, così chiariamo anche qual è il garage di Piero Siena. Noi abbiamo mai litigato con Siena, amici. Ma il caratterino ce l'aveva, insomma. Sì, però con noi andava d'accordo. Questo era tanto. No, io ho solo un aneddoto che praticamente poco dopo che è morto Nino, Piero mi chiama e dice che bisognerà fare qualcosa. Nell'87 è iniziato il museo di arte moderna a Bolzano. Piero era stato invitato dai tre fondatori a seguire la prima mostra vicino alla natura e altre cose. In quel periodo, adesso non mi ricordo se prima o dopo, ma durante, muore Nino, e andiamo poco dopo a Cortona a vedere cosa fare. Nell'occasione mi porta a vedere il Beato Angelico, andiamo a vedere la scultura di Nino ci mettiamo d'accordo con Sandro e Gina sui pezzi da fare, cosa fare. Un altro grande amico era Piero Dorazio, il quale si è offerto di trovare una bellissima sede espositiva che era a Todi in piazza, una sede bellissima con la quale per la prima volta ho avuto veramente difficoltà ad allestire la mostra, un po' per l'altezza, un po' per la presenza, un po' per queste pietre, un po'. Quindi la mostra è andata bene, abbiamo messo le sculture, è un lavoro. Io, Piero Dorazio e Graziano Marini, e le abbiamo messe in una certa mostra. La cosa che mi ha sorpreso è che la stessa mostra, gli stessi elementi, le stesse culture le abbiamo portate a Bolzano. Bene, mi sembrava di aver allestito una mostra completamente diversa, una seconda mostra di Franchina. Forse Franchina si sarà ritirata anche nella tomba, magari non tutte le abbiamo messe nella posizione giusta, ma una volta il Piero, una volta il Dorazio, una volta il Graziano, ogni volta ognuno dava un'interpretazione alla miglior lettura della scultura. i criteri soliti, che si doveva girare intorno, che si doveva, il problema era l'illuminazione. Al museo, un'altra bella mostra, però quando andavo a rivedermela tranquillamente qualche giorno dopo l'inaugurazione, mi sembrava proprio di avere allestito mostre completamente diverse e anche con sculture diverse. Questa è stata una cosa molto interessante. La mostra era una delle mostre importanti, poi chiaramente ha fatto la Fondazione Prada 4 anni dopo, mi sembra, e altre cose, ma lì erano rappresentati tutti e quattro i momenti di Nino, quindi i momenti anche delle sue crisi, delle sue discussioni con altri artisti e altre cose. E l'abbiamo voluto da tutti, però stimato da tutti. Questa è una cosa da dire in un periodo dove viceversa c'erano un po' le guerre tra di loro. Devo dire che anche l'ambiente palermitano non era proprio lì, ecco, e questo è. E quindi mi ha fatto tanto, tanto piacere, ma soprattutto di aver allestito due mostre diverse con le stesse strutture. Ecco, questo è quello che ricordo. Piero ogni momento faceva riferimento a Nino, era una grandissima amicizia e questo mi ha fatto piacere, ma come diceva Cristina, riusciva sempre a collegare comunque qualsiasi fatto a questa profonda amicizia. Mi complimento per il libro che ho letto, che mi è piaciuto molto, perché io ho anche un altro piccolo aneddoto sempre legato a quella mostra. Piero si è offerto di fare anche la grafica, io e Graziano Marini, che era l'assistente di Piero da Lazio, abbiamo accettato. Non ci piaceva lavorare così a distanza, Graziano era più vicino ma era impegnato in altre cose. Le scelte sono state fatte dal responsabile, l'art director della tipografia giù. Non ci ascoltava, ha fatto quello che ha voluto, ha fatto una copertina in cartonato, ha fatto tante cose, le riproduzioni, non ha fatto nessuna delle correzioni che abbiamo chiesto, c'è anche la firma rovescia, ci sono tante altre cose. Non ci siamo lamentati in tutti i modi con tutti i responsabili. La tipografia è fallita il giorno che abbiamo inaugurato la mostra. Tanto per dire, ho capito, perché non ci davano retta, anzi, avevano altri problemi. Peccato. Questo libro invece mi è piaciuto molto perché proprio, oltre a riassumere gli altri, ha delle novità che completano. Uno legge questo libro e capisce cos'era Nino uomo e cos'era Nino artista scultore. Mi ha fatto molto piacere. Grazie. Allora io ringrazio ancora tutto, ringrazio i nostri ospiti, è stata una carrellata veramente, era impossibile non stare attenti ed essere coinvolti dai racconti non solo di Valentina Raimondi ma anche dei nostri ospiti. E vi ringrazio di essere qui con noi, perché effettivamente si respira, io non vi conosco tutti, ma abbiamo capito che c'è un forte legame anche con questo straordinario artista e con i nostri ospiti. Grazie ancora e speriamo di rivederci nelle prossime iniziative.